la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 28 marzo in diretta dagli studi di Milano, 16:30 primi 18 secondi, vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, e vi annuncia subito l'argomento della nostra mezz'oretta quotidiana. Oggi parleremo di globalizzazione, come l'Italia se la cava in una valutazione comparata di apertura nei mercati, cercando di capire come si fa a misurare questo processo e come si costruisce un ranking, una graduatoria comparata per misurare diversi paesi e capire chi sta più in su, chi va meglio, chi va, sta più in giù e perché. L'occasione è quella della presentazione che è venuta stamattina a Milano in un convegno dedicato alla globalizzazione, di questo indice della globalizzazione che ha curato l'istituto Bruno Leoni. E quindi io vi chiedo immediatamente, se volete telefonare all'800 24 00 24, qualunque sia la vostra definizione, comprensione, opinione su cosa sia la globalizzazione e che effetti abbia sull'Italia, se volete telefonateci all'800 24 00 24 per dirci, secondo voi, vorreste, sarebbe più utile secondo voi, una maggiore o minore apertura al commercio internazionale, più export e meno export, più importazioni, meno importazioni, il che significa più dazi, per capirci, perché con questo la mano pubblica può o meno aprire, tenere aperto il rubinetto o meno. Naturalmente conta anche poi la specializzazione della nostra economia e il fatto di riuscire a produrre cose di più alto valore aggiunto che si interessino i mercati. Però sapete che noi abbiamo un record di export nel 2016 alle spalle, oltre 400 miliardi, 54 miliardi di surplus commerciale, quindi insomma le cose ci sono. Ma per l'idea che avete voi, più o meno scambi con l'estero, più o meno investimenti diretti dall'estero in Italia e investimenti di imprese italiane anche all'estero, ecco, mi interesserebbe capire questo, perché in realtà nei sondaggi internazionali, quelli di Eurostat, intanto gli italiani sono, insieme ai greci, i paesi e sono il popolo, insomma siamo la nazione tra i paesi dell'Europa e nei G20 con la percentuale più bassa di chi crede che la globalizzazione abbia effetti positivi. E quindi questo spiega perché c'è una maggioranza di italiani che dice ma insomma meglio di no, meglio meno. Allora innanzitutto bisogna capire e ricapitolare perché la globalizzazione, per tutto quello che ne sappiamo, è positiva, ma questo vedremo. E poi bisogna capire come si fa a misurare la posizione e l'andamento dell'Italia negli anni rispetto agli altri paesi. Io vi dico subito, prima di presentarvi l'ospite e di farci spiegare da lei che cosa rivela questo rapporto, che è un rapporto che ha costruito un indice, cioè degli indicatori, sostanzialmente tre famiglie di indicatori, cioè appunto l'esposizione dei paesi di scambi globali, cioè la somma sul PIL di importazioni ed esportazioni, la capacità dei paesi di attrarre o generare investimenti diretti esteri, questo è chiaro cosa vuol dire, più investimenti diretti esteri in Italia, più investimenti di imprese italiane all'estero e più si sale, e poi il grado di connettività tra i paesi, la loro partecipazione ai mercati mondiali della conoscenza, il che significa pesare quante connessioni internet ci sono, quanto di telefonia fissa, quanto di telefonia mobile, per capirci. Queste tre batterie di indicatori sono state rilevate, ora ascolteremo come, tra 39 paesi, fra sommando membri del G20 e membri dell'Unione Europea, dal 94 al 2015. Vi dico subito, qua mi fermo, che noi siamo a malapena nella prima metà. Ecco, e naturalmente è interessante capire come questa posizione cambia nel tempo, se sta migliorando e stiamo in un processo di accelerazione oppure si è fermata l'accelerazione se c'è stata prima. Ma prima di questo bisogna anche che vi ricapitoliamo perché è abbastanza acquisito, anche se magari molti di voi o più di voi la pensano diversamente, che partecipare alla globalizzazione abbia effetti positivi. Allora, per capire meglio come è costruito questo indice, come va l'Italia e innanzitutto gli effetti considerati positivi della globalizzazione, è con noi Serena Sileoni, che appunto stamattina al convegno che vi ricordavo a Milano in Asso Lombarda ha presentato questo indice della globalizzazione. E lo trovate per esteso sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, www.brunoleoni.it, e buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Serena. Buon pomeriggio. Allora, prima di spiegare la graduatoria, vogliamo ricapitolare perché la letteratura economica considera innanzitutto positiva la globalizzazione e che effetti ha avuto? La considera positiva perché ormai l'esperienza ci insegna che da quando la globalizzazione, quindi dalla fine degli anni Ottanta, quando la globalizzazione ha preso piede nella integrazione degli scambi tra paesi, il benessere economico dei paesi globalizzati appunto è aumentato il potere d'acquisto e il PIL su base mondiale, c'è meno povertà, c'è meno disuguaglianza. Quindi diciamo sottolineo, c'è meno disuguaglianza su scala mondiale. Mondiale, questo esatto, ha detto Serena Sileoni, prima che insorgano gli ascoltatori, cioè, no, ce n'è di più in Italia. Scala c'è mondiale. E poi è anche abbastanza intuitivo il perché, cioè nessun paese, e anche qui le esperienze precedenti del secolo scorso lo hanno dimostrato, l'austerità italiana, l'epoca dell'austerità lo ha dimostrato, nessun paese è in grado di fare tutto bene da solo. La globalizzazione è ciò che consente l'integrazione, lo scambio di sapere e di conoscenza prima ancora che di beni e servizi, e questo fa bene a tutti quanti. Consente la specializzazione in determinati settori e consente quindi lo scambio di competenze sempre più specializzate. L'interazione del sapere è un effetto evidente della globalizzazione e sfido chiunque a dire che sia un qualcosa di negativo. Allora, per quanto riguarda qualche elemento per capire gli effetti benefici della globalizzazione che vi ha sintetizzato Serena Sileoni, per capirci, stiamo parlando di un PIL globale pro capite che viene espresso in dollari costanti a parità di potere d'acquisto, che a livello globale, quindi mondiale, con la globalizzazione dal 1990 al 2015, quindi in 25 anni, è aumentato di più del 50%, per capirci. Allora, questo che cosa significa? Che gli effetti di questo aumento, che ovviamente è una media di PIL pro capite mondiale, però l'effetto del miglioramento è stato soprattutto nei paesi più poveri. Quando si indica il miglioramento, significa che, per esempio, trovate tutto nel paper, mi limito a fare due esempi, tra il 1990 e il 2010 la quota di quanti vivono sotto la soglia della povertà assoluta nel mondo si è ridotta di 1 miliardo di individui, cioè è scesa dal 43%, questa era la percentuale nel 1990 nel pianeta Terra, al 21% nel 2010, e ha un trend di continua discesa, ovviamente se la globalizzazione non si ferma. Ha rallentato di sicuro nel 2016, ma comunque il trend è questo. E questo significa che anche la disuguaglianza, cioè ci sono diversi indicatori per usare le distribuzioni, no? Per esempio di reddito o di patrimoni, ma se prendete l'indice di Gini per i redditi, che è uno degli indicatori più usati, anche se ha dei limiti e dei difetti dal punto di vista statistico, e comunque anche questo, se prendiamo solo 10 anni, dal 2003 al 2013, quindi gli anni post ingresso Cina 2001 nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ecco, a livello globale l'indice Gini, anche questo nella distribuzione dei redditi, è sceso da 69 a 65, e con questo ritmo, con questo trend, tende a scendere a 61 nel 2035. Certo, questo è soprattutto appunto grazie agli effetti che la globalizzazione ha avuto di aumento del reddito pro capite nei paesi prima meno sviluppati, cioè ha fatto uscire dalla soglia di povertà assoluta e ha fatto alzare nella piramide dei redditi di questi paesi centinaia di milioni di individui che hanno iniziato la loro rapida però nel tempo scalata verso l'acquisizione di posizioni, stili di consumo eccetera eccetera da ceto medio, diciamo così, rispetto a essere o poco sopra o poco sotto la soglia della pura sussistenza. Cosa diversa è dire però Serena, che effetti la globalizzazione ha nei paesi più avanzati. Sì, senz'altro. Allora, è evidente che il dato della diminuzione della disuguaglianza e della povertà a livello globale è comunque un dato positivo. Poi se vogliamo fare i nazionalisti è chiaro anche appunto che se a livello globale ci sono meno poveri e c'è meno disuguaglianza, possono esserci dei paesi, soprattutto quelli che erano già paesi sviluppati, che hanno sofferto invece fenomeni di globalizzazione. Ciò non toglie tuttavia che anche a loro convenga essere aperti alla globalizzazione. Aspetta, perché su questo devo fare una domanda, perché i più degli scettici dicono no, perché quello che si vede è che noi in molte specializzazioni, classicamente si fanno gli esempi del tessile, della manifattura a basso valore aggiunto, eccetera, eccetera, noi perdiamo interi settori delle nostre specializzazioni tradizionali e i relativi occupati. Sì, è evidente che ci si mette in concorrenza su scala mondiale. E che mettersi in concorrenza con altri vuol dire anche farsi delle domande sulle proprie capacità di reggere la concorrenza, quindi per esempio dover convertire il proprio processo produttivo o anche i prodotti che si fanno. Tuttavia il fatto che dei paesi che possono essere partner commerciali escano dalla povertà e acquistino capacità anche di comprare è alla lunga un effetto, torna ad essere un effetto positivo. Intendo, se oggi i paesi che prima erano più poveri di ora non potevano comprare le nostre merci, se grazie alla globalizzazione possono uscire dal loro stato di povertà, possono diventare dei clienti, questo proprio banalmente. In più, e questo l'indice lo dimostra, anche laddove i paesi diciamo tradizionalmente sviluppati, anche laddove hanno registrato diciamo un'apertura comunque più timida negli ultimi anni, comunque sia abbiamo individuato delle correlazioni tra l'apertura al commercio e agli investimenti e il potere d'acquisto, PIL pro capite, una correlazione positiva, ossia più i paesi sono aperti, più il loro PIL è alto, più la occupazione o specularmente la disoccupazione mostra degli indici significativi. Cioè se un paese è aperto non è un rapporto di causa-effetto, ma è una correlazione. I paesi aperti hanno meno problemi di occupazione. Cioè significa che quei settori in cui nella specializzazione internazionale magari se hanno specializzazioni a basso costo, cioè a basso valore aggiunto, e lì subiscono l'effetto della riduzione dei propri settori per l'apertura al mercato globale, l'occupazione che si perde lì, se hanno abbastanza flessibilità, si compensa con nuovi occupati in altri settori a più alto valore aggiunto o nei servizi. Io vi ricordo, cari ascoltatori, se volete approfondire andate alle 65 pagine del rapporto Istat sulla competitività 2017 che è stato rilasciato giovedì due settimane fa, che se andiamo a vedere le performance italiane 2016 e guardiamo il quindicennio precedente, ma basta guardare anche quelle 2011-2015, quindi dopo la crisi di rischio sovrano europeo e italiano, troverete andamenti di produttività molto divergenti, cioè mentre nei settori dell'industria e in particolare nella manifattura, la manifattura fa da sola più di 200 dei 400 miliardi di export 2016 italiano, troverete un andamento negli ultimi tre anni della total factor productivity, cioè la produttività multifattoriale, quella che misura non solo la produttività del lavoro, ma di tutti i fattori della produzione, quindi anche il capitale finanziario e gli intangible, brevetti, marchi depositati e così via, che per l'industria manifatturiera è a un più 1,8% annuo in un paese che come media complessiva è allo 0, mentre quella dei servizi al mercato domestico è meno 1,7 l'anno. Quindi noi sappiamo dove concentrare gli sforzi per crescere il valore aggiunto, perché ci sono già le 190.000 imprese sulle 216.000 che sono le più internazionalizzate in Italia, cioè quelle manifatturiere, ci sono 190.000. Quelle già fanno vedere di avere una produttività multifattoriale capace di generare occupazione aggiuntiva che serve esattamente a compensare, ma anzi a superare, se ci concentriamo su di loro, gli occupati e le imprese che vengono meno invece in quanto esposte alla concorrenza fatta solo sul più basso costo e non sulla più elevata qualità. Perdona Serena se ti ho intrattenuto su questo, ma perché la questione fondamentale da chiarire prima di arrivare al ranking è che cosa ci si perde e che cosa ci si guadagna, per così dire. Allora, non dimentichiamo, Oscar, scusami se posso, che nella apertura alla globalizzazione che noi abbiamo misurato c'è anche la capacità ovviamente di attirare investimenti. Esatto. Quando si dice capacità di attirare investimenti si dice anche il fatto di far sì che imprese straniere o multinazionali vengano da noi. Questo ovviamente genera ricchezze, la genera su due binari, prima di tutto da un punto di vista occupazionale. Noi abbiamo elaborato questo indice in collaborazione con Whirlpool proprio perché Whirlpool ha aperto, sta aprendo questi giorni il suo centro di comando per tutta l'Europa a Milano. Esatto. E questo genera occupazione, ma non è soltanto quello, genera anche trasferimento di conoscenze, competenze e know-how a beneficio non soltanto appunto degli occupati, di coloro che saranno occupati della impresa che viene, ma di tutto il sistema produttivo del paese che li ospita. Ora, questo è da ricordare che in Italia, in questi ultimi anni, malgrado la crisi italiana, e alcuni credono sia in contrapposizione, ma non è così, il totale degli occupati sulle imprese su cui all'estero su cui è aumentato l'investimento e la presenza in posizione di partecipazione e controllo delle imprese italiane, per la sola industria manifatturiera, pensate, è salito a 800.000 unità. Se andiamo a vedere tutte le imprese italiane, arriviamo a 1.100.000, e questo paradossalmente a molti sembra un aspetto negativo, invece è un aspetto positivo, perché significa aumentare il trasferimento tecnologico e organizzativo con un ritorno positivo anche nel nostro paese, se le imprese italiane a propria volta aumentano la loro presenza all'estero e se riusciamo ad attirarne di più di multinazionali in Italia. Torniamo tra un minuto. Traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Allora, con Serena Sileoni, che è vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, stiamo vedendo questo indice della globalizzazione. Vi abbiamo spiegato, vi ha ricordato i benefici, cosa è successo nel mondo, perché nei paesi più avanzati ci sono aspetti più problematici, ma che comunque vengono nei dati superati da quelli positivi. E andiamo adesso al dunque. L'Italia come si colloca in questi 39 paesi? Per cosa va meglio e per cosa va peggio, guardando l'indicatore vostro? L'Italia si colloca a metà dei 39 paesi e consideriamo che i 39 paesi sono i paesi dell'Unione Europea e i paesi del G20. Ovviamente la somma dei due fa di più, ma molti sono in sovrapposizione. L'Italia si colloca quindi a metà della classifica, e si colloca a metà perché è molto brava in una serie di indicatori e molto poco brava in un'altra serie. È molto brava nel commercio internazionale, quindi è molto brava negli scambi import-export. Si sa, l'Italia ha un marchio Made in Italy che si esporta molto facilmente, e questo ci fa essere, per questo indicatore, in testa alla classifica, ma è molto poco brava nell'attirare gli investimenti stranieri e in parte anche nel fare investimento all'estero, e anche questo non è un dato che ci sorprende poi tanto. È difficile fare, si dice sempre, è difficile fare investimenti in Italia perché c'è un costo della regolazione, un costo della burocrazia, un costo dell'incertezza normativa e un costo anche nel caso di controversie davanti ai giudici che le imprese che vengono da fuori debbono mettere a bilancio, e a volte rinunciano a venire proprio perché il contesto normativo, compreso anche quello fiscale, non è poi così invitante. Quindi noi siamo 17esimi su 39? Sì. E in testa quest'anno siamo 17esimi su 39. Ma negli anni a ritroso? Noi stiamo migliorando, miglioravamo, ci siamo fermati, come sta andando? No, siamo sempre stati a metà e abbiamo seguito la linea tendenziale, la media tendenziale di tutti i paesi, che è una media che ha visto dal 94 al 2007 l'indice di globalizzazione migliorare, arrestarsi in corrispondenza della crisi e pian piano faticosamente recuperare. Diciamo che dal 2008 in poi l'apertura dei paesi non è peggiorata, non necessariamente vuol dire che sia migliorata, è stata più o meno stazionaria con piccoli miglioramenti. Anche i paesi in testa sono sempre gli stessi dal 94 oggi, e cioè sono Irlanda e Malta, soltanto con 2 anni di intervallo, dove il primato è stato dato a Svezia e Danimarca. Naturalmente questa roba di Malta fa sorridere molti, ma che razza di graduatoria è? Lo so, però spieghiamolo. È molto significativo, e anche questo, se ci si pensa bene, non è poi un dato sorprendente. Malta e Irlanda sono 2 paesi piccoli, Malta piccolo, Irlanda relativamente piccolo, che quindi hanno bisogno di integrarsi e di creare un'integrazione di valore con paesi stranieri. Più non piccolo è un paese, meno specializzazioni ha, come esatto, ovvio. Non hanno le capacità dimensionali, se non altro per esempio nel settore manifatturiero, produrre tutti i beni. Quindi necessariamente debbono integrarsi, e necessariamente, d'altro canto, debbono attirare capitali e investimenti. L'Irlanda si è specializzata sull'attrazione dal punto di vista fiscale, Malta sull'attrazione dal punto di vista finanziario, tanto che è riconosciuta a livello internazionale come un hub finanziario. Inutile dire che, malgrado noi facciamo meglio nella componente esportazione della Francia, però poi per tutto il resto, Gran Bretagna soprattutto, ma Germania e Francia sono più alti di noi nella graduatoria. Iniziamo a sentire qualcuno degli ascoltatori. Cominciamo con Angelo, che ci chiama da Bologna. Angelo, prego. Buonasera Oscar. Sì. Allora, premetto che io sono pro globalizzazione, nel senso che è uno strumento, e come ogni strumento nuovo è benvenuto. E di per sé non è né buono né cattivo, dipende come nuovo mica tanto, il più alto apice era stato raggiunto nel 1914, poi il lungo ciclo delle guerre mondiali, naturalmente non era un mondo just in time globalizzato finanziariamente, però voglio dire, se vai a vedere sullo scambio di merci c'era stata un'accelerazione pazzesca tra fine 800 e inizio 900, poi l'Europa è esplosa ed è tornato tutto indietro, però cioè, non è un fenomeno nuovissimo, la tecnologia è cambiata, quindi just in time. Però scusami se ti ho interrotto. Bene, detto ciò, come io penso che ogni strumento di per sé non è né buono né cattivo, dipende come viene usato. Coltello taglia pane, buono; coltello nella schiena, cattivo. Allora, a mio avviso il problema non è la globalizzazione, ma che questa globalizzazione ha portato un'esportazione nei paesi in via di sviluppo dell'unico modello che è rimasto, che è quello capitalistico selvaggio, e quindi ha portato con sé il divaricarsi della forbice tra classe ricca e classe povera, però, con la conseguente sparizione della classe media. Aspetta, tu dici che nei paesi poveri, come abbiamo spiegato, ma non noi, sono gli indicatori che vedi su Banca Mondiale e così via, che il coefficiente di Gini è sceso, cioè la distribuzione dei redditi è molto meno iniqua nei paesi poveri adesso rispetto a 20 anni fa, e questo è un dato di fatto. Però il problema, piuttosto, l'aumento dell'indice di Gini si è verificato in alcuni paesi sviluppati, si è verificato anche in Italia grazie al welfare che abbiamo, però più che per la globalizzazione. Allora, c'erano un mucchio di telefonate, secondo me continuiamo anche domani, se permettete. Io posso chiedere a chi telefonava oggi e non ci abbiamo avuto tempo di ci risentiamo anche domani sul tema della globalizzazione, perché tanto ce n'è da dire, ma soprattutto voi siete in parecchi, davvero. Facciamola anche domani la trasmissione, perché ne vale la pena. C'è chi chiede l'euro, non euro, sono tutti temi da affrontare. A domani, e grazie a Serena Sileoni.